Vin un bonum et suave, bonis bonum, pravis prave, ponti dolci sale. Il piacere della buona tavola. Forti mangiatori d'ottimo buon gusto. Ave venis creatura, quam produxit vitis pura, omnis mensa fit segura, in tua presenzia. Il pasto veniva annaffiato da vinelli locali e nelle regioni nordiche da birra che, già nel pieno Medioevo, era molto apprezzata e usata, anche perché è ottenuta da prodotti, luppoli e altri baccelli, locali, dove l'uva non poteva maturare. Più tardi, nelle regioni dell'Ovest, venne usato molto il sidro di mele e di pere, che però era ritenuta una bevanda da strapazzo o per mense povere. Ma ovunque, sino nelle regioni più nordiche, il vino era il re della mensa e veniva importato, dando origine a vere e proprie compagnie di importazione. Circa il vino si era sviluppato un buon gusto, così che, ad esempio, il vino normanno aveva la reputazione di brucia budelle e si preferiva spendere per avere vini del sud o del Reno. Poi, agli inizi del XII secolo, ci si specializzò nella distillazione di acquavite di grano e dal 1300 acquavite di frutta. Solitamente si mangiava in scodelle di legno o di ceramica, che poi assunsero man mano nell'elaborazione degli artigiani un aspetto dagli orli sempre meno alti, dando origine all'assiette, cioè al nostro piatto poco fondo. Erano conosciuti i cucchiai e i coltelli. Di solito ne venivano posti di questi ultimi uno per ogni due persone sulla mensa. La forchetta non era ancora conosciuta. Apparirà in tavola come fatto nuovo e curioso soltanto alla fine del 1400. Salvo i giorni di festa, e ciò anche nelle case signorili, non si usavano tovaglie, uso che si diffuse invece a cominciare dalla fine del 1300. Le tovaglie erano intese non solo come elemento igienico, ma anche decorativo, e scendevano perciò fino a terra, solitamente ornate da ricami colorati e passamanerie variopinte, come si può vedere in molti dipinti. La cosa aveva anche una funzione molto pratica, poiché i commensali che staccavano con le mani i pezzi di carne oppure si servivano direttamente e senza posate nei grandi piatti di portata, asciugavano poi le mani nell'ampio tessuto ricadente della tovaglia. Perciò, nei banchetti più lunghi e fastosi, dopo ogni grande portata, lasciavano la mensa per passeggiare in giardino o ascoltare le esibizioni dei musici, mentre gli inservienti cambiavano più volte, anche nel corso dello stesso pranzo, le tovaglie. La cosa era meno complessa, più gustosa e pratica nelle campagne, dove la tovaglia era costituita da una larga sfoglia di pane sottile che ricopriva tutta la mensa. I cibi venivano disposti su tale nappa di pane che veniva sbocconcellata sino al suo esaurimento. Se le portate erano molte e l'appetito dei commensali rustici più gagliardo, si cambiava di tavola, il che significava stendere una nuova tovaglia di pane. Non mancavano, neppure in campagna, certe cortesie con funzione anche igienica. Ad esempio, e soprattutto, ci si lavavano le mani all'inizio del pranzo. Nei monasteri, e ciò era imposto addirittura dalla regola di San Benedetto, era lo stesso abate che versava l'acqua sulle mani degli ospiti. Ancora oggi è possibile ammirare nei vecchi monasteri un sontuoso lavabo all'ingresso del refettorio. L'operazione era addirittura rituale nei pranzi signorili, poiché corner l'eau, cioè versare l'acqua da parte di stuoli di scudieri, era sinonimo di il pranzo è servito. Le carni venivano tagliate, qualora fossero enormi quarti arrostiti, da scudieri specializzati in trancio, che portavano sempre con sé affilatissimi i coltelli, simbolo del loro mestiere. Un uso che coronava ogni pranzo di rispetto, anche in campagna, era quello di riservare numerosi assaggi di vini al termine di tutto, il che si prolungava assai, non a mensa, ma altrove, in giardino, nel salone, nei portici. È il dessert, o l'uso attuale inglese di servire vari tipi di porto al termine o al levare delle mense, il che nel Medioevo significava letteralmente togliere di mezzo i tavoli serviti per il pranzo. In non pochi cronisti dell'epoca abbiamo descrizioni minutissime di pranzi più o meno ricchi. Sarebbero tali descrizioni ottime sceneggiature per rappresentazioni in costume, documentanti quel piacere della buona tavola che fu uno degli aspetti cospicui dei sanguigni e gagliardi uomini del Medioevo, poeti, guerrieri, santi e forti mangiatori d'ottimo buon gusto. Il piacere della buona tavola. Comunque non spense nell'uomo medievale, nelle sue impennate mistiche, nelle sue capacità artistiche e creative. Oh, quam felix in colore, oh, quam fragrans in ardore, oh, quam placens signore, dulce lingua vinculum. Monacorum grex divotus, clerisum omnis fundus totus, vivum padet.